Tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Giorgio De Luca, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Notizie da Milanello, dal bunker dove si è rinchiuso il Milan in crisi. Si va avanti con Massimiliano Allegri almeno fino alla prossima settimana, dopo aver superato le trasferte contro il Barcellona mercoledì e il Chievo domenica. Poi c'è la sosta per le nazionali e si vedrà. L'impressione è che questa volta Allegri sia davvero appeso a un filo, anche se mi sembra evidente che le colpe non siano tutte sue. 800 24 00 24, chiamate per dirci che cosa ne pensate di questa clamorosa caduta verticale del Milan. Io non ci trovo niente di sorprendente per come le cose sono andate negli ultimi mesi. Intanto Inter e Verona hanno vinto e sono quarte insieme, anche questa secondo me in un certo senso è una sorpresa. E poi c'è da tenere d'occhio oggi pomeriggio la posizione di Petkovic e Delio Rossi. Ci sei, Carlo? Sono, Giovanni, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccoti, prima pagina. Sabato 2 novembre, ore 22.35, il giorno e l'ora che segnano il tramonto della stagione rossonera. C'è qualcosa di fragoroso nel precipitare del Milan. Il campionato non aspetta e non ascolta nulla, nemmeno il duro atto d'accusa di Allegri. L'ultima mezz'ora, la peggior mezz'ora dei miei 3 anni e mezzo al Milan. Credo che parlare molto serva ben poco, c'è solamente da riordinare le idee. Io devo trovare la soluzione a questo momento, da domani saremo tutti insieme fino alla partita di mercoledì col Barcellona e poi ci prepareremo per la partita di domenica col Chievo. C'è un campionato che vive dietro alla Roma dei record, c'è ad esempio una corsa a tre per provare a stare attaccati al treno di testa, c'è il quinto gol di Toni e il settimo di Palacio. Palacio! E l'Inter in vantaggio, ancora Rodrigo Palacio, 25esimo minuto. C'è la serenità della Fiorentina, la classifica è corta, dice Montella, è l'unico, ma sembra crederci davvero. So che il campionato veramente è all'inizio, intanto la guardo, è cortissima per me la classifica, quindi intanto me la gusto, me la guardo e poi tutto può succedere. E poi ci sono due città che questa sera si incolleranno al televisore sperando in un passo falso della Roma. Una ha la testa al Real Madrid e il cuore che batte per i cugini del Toro perché rendano indimenticabile il sabato di Parma. Prova a girarsi Quagliarella, Quagliarella! Paolo, incredibile! Pogba! Non perdona! L'altra invece viaggia a modo suo, a ritmo di record. Mai Benitez era partito così bene in carriera, mai il Napoli dopo Maradona era stato tanto in alto, mai probabilmente sentiremo Rafa dire che va tutto bene. Questo risultato di questa sera merita almeno, considerando il suo record personale, un'aggiunta di un punto percentuale al 75 famoso ormai, che resiste da troppo tempo a questo punto. 75 ancora. Cos'è? Se puoi migliorare tanto per me. A proposito di record, Vettel ha passeggiato anche ad Abu Dhabi, 11° sigillo stagionale, 7° consecutivo, 37° in carriera, potremmo stare qui tutto il pomeriggio. E poi ci sono le azzurre del tennis, 4ª Fed Cup come solo Spagna e Stati Uniti nella storia, c'è uno sport dove i numeri uno siamo noi. Tutti convocati. 800 24 00 24. Ovviamente, Carlo, parleremo anche di Formula 1, parleremo anche di tennis perché abbiamo tempo fino alle 19, però il tema caldo, il tema che sta occupando le cronache sportive di queste ore certamente è la crisi del Milan. Hai sentito Montella? Sì, ho sentito Montella, ho sentito Allegri, insomma mi sembra che le analisi siano corrette, nel senso che Montella fa bene a crederci, perché la Fiorentina gioca bene, perché comunque vincerà Milano è uno splendido risultato, perché caccia via anche i fantasmi di arbitraggi avversi, queste storie qui. Quanto al Milan, è chiaramente una squadra che non ci crede più, a cominciare dai giocatori, perché sappiamo benissimo come sono le dinamiche dello spogliatoio. Allegri è in bilico da 2 anni, le cose vanno sempre peggio, è una squadra dall'elettroencefalogramma fiattissimo. Quindi non c'è fiducia nelle tre parti, società, giocatore, allenatore. Mi sembra inevitabile l'epilogo di questa storia di Montella al Milan. Penso che presto vedremo Inzaghi sulla panchina della prima squadra. Sì, io mi fido di Montella e lui certamente ha ragione a dire le cose che dice. Poi però io do un'occhiata alla classifica e ti dico la verità, a me la classifica sembra tutto tranne che corta oggi. Ci sono 8, forse 11 punti tra la prima e la quarta, ci sono 6 punti tra la Fiorentina che chiude il sestetto di testa e la Lazio che apre il resto del campionato, la Lazio che ha la metà dei punti della Roma, ma pensa che Juventus e Napoli hanno il doppio dei punti di 13 squadre, cioè di più di metà campionato. Anche per questo io credo pensare a una rimonta della Juventus è praticamente impossibile, del Milan scusa, è praticamente impossibile, perché questo è un campionato spietato che non aspetta e quindi non aspetterà certamente che il Milan trovi un equilibrio nella sua crisi, ammesso che sia possibile. Sì, no, non, il Milan è tagliato fuori io credo da ogni discorso, anche perché se insomma le grandi rimonte possono riuscire una volta, se è una squadra che sta bene, se è una squadra che vedi progredisce, se come l'anno scorso è stato inserito il trasformatore di Balotelli, no? A gennaio, non dimentichiamolo, anche questo fu uno dei motivi della riuscita rincorsa del Milan. Adesso, insomma, classifica corta o no, è un campionato molto bello, ci sono tre squadre che stanno volando, perché se la Roma non fa i miracoli, comunque Napoli e Juventus stanno viaggiando a ritmi pazzeschi. Quindi credo che la Fiorentina sia la prima di quelle normali, può essere che vinca il campionato di quelle normali dietro le prime tre, che al di là di questi ritmi che sono insostenibili è chiaro che non possono essere rischia di essere una medaglia di legno per quello che ha valore. Sta parlando Gilardino ai microfoni di Sky Sport, no, ha finito in questo momento. Beh, Gilardino oggi è stata anche l'ennesima domenica dei vecchietti, quelli che fra qualche mese sognano di andare in Brasile. Ha segnato Luca Toni, ha segnato ancora Gilardino. Ho l'impressione che Prandelli dovrà fare qualche scelta nei prossimi mesi e non è detto che non ci siano sorprese, ad esempio su Balotelli, perché sinceramente l'involuzione di Balotelli, Carlo, è impressionante, clamorosa. Se arriva così in primavera, io non so se poi Prandelli avrà il coraggio di portarlo. Beh, insomma, sarebbe una pazzia, perché comunque resta per me il più forte attaccante italiano. Sì, ma cosa adesso serve Balotelli di ieri, delle ultime partite, di tutto l'ultimo mese? Perché nell'ultimo mese sì, o non ha giocato per motivi vari, ma più che altro per demeriti suoi, oppure è stato quello di Parma sostituito, è stato quello di ieri sera. Sì, ma lui è un giocatore come è lo specchio del Milan, no? È un giocatore assolutamente piatto in questo momento. È un giocatore piatto, è un giocatore che non, questo è ovviamente un suo limite, non è un leader naturale, quello che si carica la squadra sulle spalle, ti risolve in momenti difficili. È una squadra che non gli dà palloni giocabili e di conseguenza lui mi sembra molto normalizzato, e in questo mettiamoci dentro tutto, da questa continua guerriglia interna e taglia la cresta e toglie gli orecchini e fa il bravo, che poi in campo, che è quello che conta, non mi sembra che siano migliorate tantissimo le cose, perché prende un giallo ad ogni lacciata di scarpe, sì, quindi, sì, quindi non mi sembra per niente migliorato. Preferisco il Balotelli un po' selvaggio, un po' sopra le righe, che però va in campo e ha energia. Questo Balotelli non ha energia, è un giocatore assolutamente normale. Da qui a dire, a mettere in discussione per la nazionale, secondo me è follia, perché rimane per me il miglior attaccante italiano di gran lunga. Sì, ci sono le prime battute di Guidolina, Sky Sport. Cessa di prendere due gol su palla ferma. Niente, non c'è. Abbiamo giocato male, abbiamo meritato di perdere e purtroppo questa è una sconfitta pesante, una sconfitta difficile da mandare giù, insomma, con tutto il rispetto ci mancherebbe per i nostri avversari, per l'Inter che ha fatto bene, ma siamo mancati noi, siamo. E quindi c'è poco da considerare, c'è poco da aggiungere. Abbiamo salvato l'orgoglio perché nel secondo tempo, perlomeno, anche nel primo abbiamo lottato, ma nel secondo tempo non volevamo riaprire la gara, abbiamo messo l'orgoglio. Sì, mi sembra molto depresso Guidolin. Tutti convocati. 800 24 00 24, sta parlando ancora Guidolin, gira tutto Carlo sempre comunque intorno a Balotelli, poi avremo due ore per parlare di Allegri, ma è bastato nominarlo. Ti leggo alcuni dei messaggi arrivati al 349 238 6666. Quindi secondo lei Prandelli dovrebbe portare Girardino e Toni e lasciare a casa Balotelli? Ho capito bene? No, ha capito male. Io ho detto se a marzo e aprile Balotelli è questo qui. Qualche riflessione o l'impressione che diventa obbligatoria. Max invece, era ovvio che il Milan finisse così, è ancora convinto di avere come punta di diamante un teppistello insignificante. E poi ancora un altro amico, Balotelli sta dimostrando di essere un mezzo fuori classe, una specie di Recoba piuttosto che un Cassano. Non ce la fa nemmeno in una giornata in cui si parla solo del futuro di Allegri Balotelli a restare fuori dai temi, Carlo. No, ma anche perché c'è un sacco di gente che parla a Vandera, cioè, sul teppistello e mezzo giocatore eccetera. Balotelli è un giocatore di grandissimo talento, molto giovane, non è vero che non ha vinto come dicono quelli poco informati, perché no, Balotelli ha vinto tantissimo e anche da protagonista, non è vero quello che dice Gagliani, non è questa la prima stagione da protagonista di Balotelli. Basta leggere il suo palmarès, basta leggere l'almanacco Panini con le sue presenze, i suoi gol e pesarli anche. Sì, infatti lui ha cominciato a segnare gol pesanti quando aveva 17 anni, ricorderai quello scudetto di Mancini in cui Balotelli ebbe un ruolo importantissimo, quindi sono tutte sciocchezze, sono tutti luoghi comuni eccetera. È chiaro che è un giocatore in involuzione, ma come tutta la squadra, è altrettanto evidente che non è quello che ti cambia la squadra da solo, non è quello che trascina la squadra. Mi sembra molto depresso anche fisicamente, così come tutto il Milan, cioè mi sembra sulla stessa linea di tutti gli altri. Depresso, quindi... e deprimente ho l'impressione, perché ieri ho sentito fischi copiosi scendere dalle tribune di San Siro anche per lui, ma del resto era inevitabile, anche per quel cartellino giallo assolutamente inutile che ha preso e che gli vale la quarta giornata di squalifica in 11, nelle prime 11 di questo campionato. Grazie Carlo. A voi, divertitevi. Grazie. Ciao. Carlo Genta, saluto subito Fabrizio Bocca, collega di Repubblica. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Stiamo aspettando le parole di Mazzarri da Udine. Partiamo dall'Inter, così proviamo a cambiare il tiro. Ti ha stupito l'Inter di questo pomeriggio? Ricordo 3-0 a Udine, gol di Palacio, Ranocchia e Alvarez. Sottolineo che è la prima senza Campagnaro, senza subire gol. Beh sì, un pochettino mi ha stupito. Devo dire che... insomma, ultimamente l'Inter non mi era piaciuta moltissimo, insomma, aveva fatto anche dei risultati, ma sempre con un gioco un po' traballante, però insomma evidentemente ha trovato una stabilità. Adesso bisogna dare la giusta misura a questa vittoria di Udine, perché sinceramente l'Udinese mi sembra un po' una squadra che stia perdendo dei pezzi, aveva già perso con la Roma in 10. In ogni caso, insomma, la vittoria dell'Inter rimane comunque una vittoria di valore, sicuramente. Poi insomma, la piazza al quarto posto, quindi. Sì, certamente è una risposta. Sì, è una risposta che mi sembra Mazzarri attendesse. Se l'Inter oggi non fosse riuscita a sbancare Udine, probabilmente anche la stagione rischiava di prendere un aspetto completamente differente, perché davanti stanno correndo, perché un conto è costruire comunque con il conforto dei risultati, un conto è trovarsi magari a misurarsi con confronti scomodi anche rispetto alla passata stagione, anche se ha ragione Mazzarri, hanno ragione tutti gli allenatori da Mourinho in giù quando dicono che sono sciocchezze solenni quando ci si mette a fare i conti dei punti tra un anno e l'altro, però è anche vero che poi diventano forme di pressione difficili da reggere per squadre magari poco smaliziate come l'Inter di quest'anno. Ma insomma, sicuramente calcola che secondo me l'Inter di Mazzarri loro tendevano molto a fare il confronto con l'ultima Inter, quella di Stravaccioni, quella che non, insomma, praticamente non stava più in campo, le prendeva un po' ovunque, ma l'Inter lo scorso anno di questo periodo insomma andava anche discretamente, era insomma, mi sembra che proprio di questo periodo più o meno arrivava la famosa vittoria di... Sì, esattamente all'undicesima, come fosse oggi la vittoria a Torino, il 3-1, un punto dalla Juventus capolista e mille illusioni, il Titanic è partito da lì. Esatto, quel momento calcola che l'Inter era al massimo, addirittura si pensava a un Inter insomma, possibilmente da scudetto. Quindi, insomma, secondo me l'Inter adesso ci deve andare con i piedi di piombo, però sicuramente è un Inter, ripeto, secondo me non bellissima, però insomma che funziona, ecco. Poi insomma con Palacio trasformato in goleador, sai, pur non avendo un attaccante che sfonda lì davanti, che però insomma sempre sull'attaccante, non è detto che l'attaccante poi alla fine riesca nel suo compito, perché ho sentito che stavate parlando di Balotelli. Sì, ti leggo un altro messaggio al 349-238-6666. Lorenzo, Balotelli è un campione, ma va messo in condizione di giocare, mentre adesso è senza squadra, la depressione è comprensibile, e mentre è folle mettere in discussione il mondiale. Credo di essermi riuscito a far capire, ma non è un problema, è colpa mia. Tu a che partito ti iscrivi? Perché ieri mi sembra che il partito degli anti Balotelli anche a San Siro sia stato numeroso. Sì, guarda, secondo me Balotelli va discusso sicuramente adesso, però va discusso in altri momenti. Adesso insomma il castello del Milan sta venendo giù. Sì, non certo per colpa di Balotelli. Praticamente tutto quanto, attaccarsi ai 3 o 4 gol che ha segnato Balotelli è un po' ingeneroso, significa fargli pagare un prezzo troppo alto. Comunque è sicuramente vero, insomma, Balotelli non ha il rendimento che dovrebbe avere, è spesso squalificato, non c'è, si parla della cresta o del tutor. Sì, non è un fattore. Esatto, si crea tantissima attesa intorno al personaggio e poi questa attesa non è mai ripagata dal campo. Insomma, un attaccante così poi deve pesare con i gol. Già il Milan non è che in questi anni li ha persi un po' i campioni, no? Quindi lui è uno dei pochi che c'è, dovrebbe dare un rendimento sicuramente più alto. A proposito, in questo momento sta sbagliando. A proposito di personaggi, di protagonisti in difficoltà, tra qualche istante sentiamo Petkovic, bisogna tenere d'occhio la sua posizione e anche quella di Delio Rossi. 800 24 00 24, Lorenzo e Roberto, partiamo da Lorenzo da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Senta, io quando sento parlare, signor Genta, di Mourinho, sì, o di Balotelli, cioè mi sembra un invasato, cioè, mi scusi il termine. Sì. Cioè, giustifica tutto a Mourinho e giustifica tutto a Balotelli. Balotelli, anche lei adesso ha detto che... Ma non mi sembra, però no, dica. Mi scusi, dica. Permetta, tutto quello che ha vinto Balotelli. Balotelli fino adesso non ha vinto niente, perché con l'Inter ha cercato in tutti i modi di farla perdere. Bah, questo è un detto da me, detto dai dirigenti dell'Inter. Non mi sembra, Lorenzo, che sia andata così. Balotelli ha vinto e parecchio in quell'Inter, e tra l'altro ha vinto anche nell'Inter di Mancini, prima di Mourinho, e ha vinto da protagonista. Io ricordo un paio di gol a Bergamo e contro la Fiorentina, quando non c'era Ibrahimovic, gol che tennero in piedi l'Inter. Grazie comunque. Fabrizio, c'è Mazzarri, le prime battute, le sentiamo. Ho fatto anche una buona partita, per esempio con la Fiorentina, che è ancora una squadra che ha valori superiori, penso, e con la Juventus, insomma, ne abbiamo fatte buone. Questa, più che altro ci tenevamo a venire qua a imporre il nostro gioco come se giocassimo in casa. Questo è quello che cerco di inculcare ai miei giocatori, che dentro o fuori casa noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, insomma, e non condizionarsi come si è fatto magari qualche volta. E poi bisogna ancora migliorare sulla gestione della palla quando si va in vantaggio. Ogni tanto facciamo delle leggerezze nella gestione della palla, soprattutto poi quando giochiamo bene ci specchiamo un po', insomma. Invece a volte in questo modo si possono anche compromettere i risultati. Sì, vado a memoria, mi sembra che questa sia stata la miglior prestazione dell'Inter, intesa come qualità e livello di gioco. Fabrizio, tornando invece a protagonisti in difficoltà, ti iscrivi al partito di chi dice che Petkovic continua a essere una risorsa per la Lazio, oppure ritieni che anche per lui settimana prossima, quando scatterà la sosta, può succedere qualcosa? Guarda, può sicuramente succedere qualcosa, però insomma, adesso sinceramente di allenatori allontanati dallo Tito a metà stagione, secondo me la Lazio deve perdere ancora, insomma deve ritrovarsi quasi in zona retrocessione, ancora non c'è. Certo, sì, c'è anche quel confronto difficile con la Roma, che sta volando, che credo stia rendendo tutto molto complicato in casa della Lazio. È tutto molto complicato, l'ambiente è molto molto esacerbato. Insomma, sicuramente la Lazio ha giocatori di grande qualità, insomma, solo così con Hernanes, hai le, insomma, Klose, Candreva, hai Marchetti, hai anche parecchi nazionali. Sì, una squadra che deve esprimere un gioco certamente migliore. Il rendimento è sicuramente molto al di sotto di quello che ci poteva aspettare, e Petkovic ha sicuramente delle responsabilità. Poi l'ho visto anche molto indispettito in queste ultime settimane, non vorrei che avesse perso un po' il controllo di certe situazioni, ma insomma stiamo un po' a vedere. Ripeto, Lodito non è uno che licenzia, anche perché costa licenziare, quindi esatto, ci pensano una, non due, ma tre volte prima di mandare via. Ma poi io ritengo che Petkovic, che l'anno scorso ricordiamo è stato l'allenatore sorpresa, un po' come lo è Garcia quest'anno, meriti di continuare nella prima parte. Ultimamente in campionato, poi la Lazio nella seconda parte insomma ha deluso parecchio. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie. Ciao Fabrizio Bocca di Repubblica. Sentiamo ancora Mazzarri. Siamo 4 contro 2, 4 contro 3, e a volte, come in questo caso, era il terreno che era un po' scivoloso, si sbagliava il passaggio quello giusto per poi arrivare davanti alla porta. Però è vero, oggi rispetto per esempio alla partita di Bergamo gli avevo chiesto proprio questo, che quando si usciva si doveva uscire tutti insieme, la linea si doveva alzare. A Bergamo l'abbiamo fatto peggio, molto peggio, e non ci riusciva a fare questo pressing alto che abbiamo fatto oggi. Massimo. Roberto da Milano, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno Giovanni Capuano, è sempre interessante seguire la vostra trasmissione, molto bella. Grazie, dica. No, volevo dire, riguardo al Milan era, adesso ahimè, dico, Allegri non è che c'entra molto sull'avvenire del Milan, perché proprio poverino lui, però ahimè potrebbe succedere che sarà appunto questa settimana qui, dopodiché decideranno. Sì, è una possibilità, credo abbastanza concreta, per la prima volta. Potrebbe essere Capuano che venga adesso Inzaghi, e poi secondo me non mi dispiacerebbe se fosse vero per il prossimo anno Montella al Milan, ecco. Se ha pazienza, io Montella al Milan credo che sia impossibile. L'anno prossimo credo al limite sia più semplice che si scambino le panchine Prandelli e la nazionale con Allegri e il Milan, sempre se Allegri non uscirà con le ossa rotte da questa stagione. Montella no, Montella mi sembra che non rientri nei piani del Milan, ma soprattutto mi sembra che abbia appena firmato un prolungamento con la Fiorentina, ci sia un progetto che ha sposato e che quindi difficilmente abbandonerà. Se però ha pazienza Roberto, dopo meteo e pubblicità parleremo a lungo del Milan ed proveremo a capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo e soprattutto cosa succederà nei prossimi giorni. 800 24 00 24, meteo e pubblicità. Mario fa un brutto fallo, deve essere punito Mario, ma un altro fa un brutto fallo su di Mario, deve essere punito quello che ha fatto il fallo su di Mario. Tutti convocati. Chissà cosa stanno facendo a Milanello in questo momento, nel bunker di Milanello. Oggi solo silenzio e lavoro, non si sono nemmeno presentati i tifosi praticamente. Un clima di silenzio rotto solo dalla comunicazione del colloquio telefonico tra Berlusconi e Galliani, con la decisione, a mio parere, obbligata di andare avanti con Allegri almeno fino a domenica, quando dopo la trasferta di Verona con il Chievo ci sarà la sosta delle nazionali. Io credo, e l'ho detto, che non ci sia nulla di sorprendente in quello che sta succedendo oggi al Milan. Questa è una stagione nata male prima ancora che cominciasse, nata male con il tira e molla di maggio sul futuro di Allegri, con la conferma forzata, con la cena di Arcore, con quel comunicato, con la carta dei diritti e doveri dell'allenatore e poi ancora con l'indicazione del nuovo modulo. I numeri sono impietosi, oggi li avete letti un po' su tutti i giornali. Penso, e lo abbiamo detto, che sia un'illusione continuare a fare confronti con l'anno scorso. Sentiamo Allegri di ieri sera, Allegri sul momento difficile del Milan a Mediaset Premium. Quindi abbiamo 12 punti, siamo a 16 punti al terzo posto, è normale che è un momento molto difficile, credo che sia il momento più difficile da quando sono io al Milan. Bisogna fare qualcosa di più tutti, e il primo deve essere io. Milan che è in ritiro, un ritiro deciso in fretta e furia negli spogliatoi di San Siro dopo la figuraccia contro la Fiorentina. Allegri sul ritiro a Sky. Dobbiamo preparare la partita di mercoledì col Barcellona, avremo un'altra partita importante col Chievo domenica, quindi avremo più tempo per stare insieme. Non è un ritiro punitivo, ma è un ritiro che abbiamo preso tutti assieme. E poi c'è l'ipotesi delle dimissioni. Io lo so che non è bello chiederlo, però ieri era una domanda che non si poteva non fare. E allora D'Allegri questa domanda l'hanno fatta, la sentiamo a Rai Sport. La domanda purtroppo va fatta. Lei non pensa alle dimissioni perché ritiene ancora di avere in pugno la situazione e la squadra? Le dimissioni assolutamente, anche perché credo che questa squadra si possa rialzare. Ripeto, il responsabile sono io e sta a me trovare la soluzione al problema. La squadra è ancora con lei, quindi ritiene di averla in pugno? La squadra è ancora con me perché due settimane fa avevamo giocato col Barcellona, avevamo vinto con l'Udinese. Credo che in questo momento ci gira anche un po' tutto storto, ma questo non basta. Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ti devo dire la verità, a me ha fatto anche impressione sentire alcuni grandi ex del Milan come Panucci, ma soprattutto Costacurta ieri sera dopo la partita dire abbastanza apertamente di non essere più sicuri che Allegri abbia in mano squadra e spogliatoio perché ci sono troppi errori individuali, troppe distrazioni. Fa impressione perché sono persone che quei muri e quelle logiche le conoscono benissimo. Io non credo che Allegri abbia in mano la situazione, lo si vede da quanto e come corrono in campo i giocatori del Milan, ce n'è qualcuno che corre e qualcuno che passeggia, quindi questo vuol dire che la situazione in pugno non ce l'ha, poi che sia giusto passeggiare, no, però evidentemente non ce l'ha in pugno. Intanto stanno scrivendo in tantissimi al 349-238-6666, c'è anche chi parla della seconda ammonizione non data da Aquilani che avrebbe potuto cambiare il senso della partita e ci dice abbiate le palle per dirlo che a Balotelli come rifiata lo puniscono, invece per Aquilani non c'è stata la seconda ammonizione. Noi abbiamo le palle, lo diciamo Andrea, Aquilani poteva tranquillamente essere espulso, il discorso su Balotelli anche Balotelli poteva essere espulso perché la prima ammonizione non gli viene data per una evidente simulazione in area. Sì, assolutamente. E non gli viene data, poi gli viene data giustamente quella per il fallo inutile, assolutamente inutile sulla linea di fondo. Quindi anche Balotelli doveva essere espulso se questo è il metro. Se poi la gente continua a pensare che Balotelli debba essere accarezzato come un cagnolino e coccolato, allora secondo me ha sbagliato interlocutore. Insomma, sì, io non anche sono secondo di questo avviso. Anche secondo me. Proviamo a capire il momento del Milan e che cosa accadrà in 10 domande. Tu conosci benissimo che cosa sta succedendo a Milanello. Proviamo vero e falso, Andrea. Ad esempio... contro Barcellona e Chievo Allegri ha davvero la chance di salvare la panchina e non è tutto già deciso e si attende solo la sosta per mandarlo via, vero o falso? Dico che è vero, cioè secondo me si attende la sosta per mandarlo via. Ah, quindi il destino è segnato a prescindere. E poi due, Allegri ancora in mano la squadra, per me è falso. Falso. Falsissimo. E poi il ritiro che ieri è stato raccontato essere stato concordato, in realtà è stato imposto dalla società che è furente per gli atteggiamenti anche di Allegri, eh? Vero, vero o falso? Vero? Vero. Ci stiamo prendendo. Poi la quarta, Berlusconi interverrà sul Milan come un anno fa quando cominciò a salire a Milanello, lo farà anche quest'anno, per me è falso. Direi falso, anche perché credo che Berlusconi... tra poco probabilmente potrà avere qualche problema a muoversi, quindi non penso che possa andare e venire da Milanello come crede. Sì, ma per evidenti problemi giudiziari. Sì, ma credo anche per telefono o in altra forma ho l'impressione che Berlusconi comunque interverrà meno sul Milan quest'anno rispetto a quanto fatto un anno fa. Credo che abbia degli altri interessi e degli altri problemi. La quinta, Gagliani, che è in silenzio da ieri sera, è così perché anche lui per la prima volta ha scaricato Allegri, vero o falso? No, questo credo sia falso, non ha scaricato Allegri, sta cercando di saltare fuori da una situazione complicata nella quale anche per certe sue scelte il Milan è finito. E poi Seedorf, che ha parlato nei giorni scorsi, anche se poi ha smentito, ha attaccato Allegri perché ha capito che il momento è buono per mettere le mani sulla panchina del Milan, vero o falso? Vero. Vero, verissimo. Sì. E io l'ho trovato anche abbastanza sconveniente, anche le parole di Inzaghi, perché insomma se uno dice di avere a cuore le sorti del Milan, questo è il momento per stare zitti. Io, scusa Andrea, ho apprezzato tantissimo Ambrosini ieri sera, che si è presentato ai microfoni dopo la partita, ha salutato la gente, ha detto io volevo solo salutare, questo non è il momento di parlare del Milan. Uomo vero Ambrosini, Ambrosini uomo vero, credo che per allenare il Milan ci debba essere anche un minimo di esperienza alle spalle, insomma. Sì. Né Inzaghi né Seedorf mi sembra che abbiano delle esperienze adeguate al momento, poi diventeranno grandissimi allenatori, ma prima servono delle esperienze. Anche il contratto chiuso con Ambrosini credo sia un errore capitale, sarebbe servito come il suo peso in spogliatoio. La settima domanda: Gagliani tenterà in tutti i modi di non bruciare Inzaghi, che è il suo uomo, ma non adesso, vero o falso? Vero. Vero? Perché sì, può essere lui sì. L'allenatore del futuro, ma metterlo adesso sulla panchina significa rischiare di bruciarlo. Secondo me è vero. E poi, senza la Champions a giugno ci sarà una cessione pesante, il nome sarà Balotelli. Ma anche con la Champions io credo che Balotelli sia destinato ad andare via dal Milan. Però è vero che senza la Champions sarà un mercato difficile, sarà un'estate difficile. Ma il Milan deve rifondare, deve decidersi che per rifondare non basta cambiare il nome come succede con PDL e Forza Italia, bisogna cambiare il nome ma soprattutto cambiare i contenuti, cambiare i giocatori. E poi e avere un chiaro progetto tecnico che poi va perseguito per almeno 2-3 anni. Sì, e poi è anche vero che la parabola di Balotelli al Milan rischia di esaurirsi in fretta anche per autocombustione. Nona domanda: Balotelli ha rotto con parte dello spogliatoio per i suoi atteggiamenti, vero o falso? Vero. Mi sembra anche una parte sempre più ampia. Direi assolutamente di sì, ma credo anche i tifosi comincino a non sopportarlo più tanto. E poi la domanda delle 100 pistole: sabato 23 novembre, Milan-Genoa, Allegri sarà ancora allenatore? Secondo me è vero, malgrado tutto. Secondo me potrebbe essere vero, però ci sono molti punti interrogativi, moltissimi punti interrogativi a mio avviso. Sai che secondo me alla fine non lo mandano via? Sarebbe la vittoria della linea Gagliani in questo caso, però io non vedo come Milan possa risollevarsi da questa situazione. No, questo non lo vedo nemmeno io. Grazie ad Andrea Schianchi. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta, massima autorità per quanto ne so io sulle cose del Milan. C'è Tony che sta parlando a Sky Sport, sentiamone una battuta. È stata una scelta no, meglio che non si dice. Diciamo che è stata una scelta che non è stata, sbagliata. Pensavo di andare in un campionato che era ancora un campionato da professionista, invece mi sono trovato in un campionato dove di professionismo c'era poco, la vita era bella, però avevo ancora voglia di giocare. Purtroppo sono dell'idea che finché giocherò, finché mi allenerò, voglio giocare a livelli importanti. Quando non avrò più la voglia di allenarmi, mi smetto. E quindi è stato un errore che ho fatto ad andare là. Una bella esperienza di vita, ma dal punto di vista calcistico sicuramente non è stata un'idea felice. Intanto 5 gol dal Dubai al Brasile. Sentiamo la risposta sul Brasile di Luca Toni. Perché se si va avanti così, Luca Toni certamente ha diritto a sognare di salire sull'aereo che va in Brasile. L'ha detto anche Prandelli. Se vi ricordate, l'ha detto Mandorlini qui per primo, 2 mesi fa, intervenendo a tutti i convocati weekend. Sentiamo se Toni quella speranza la sta coltivando. No, sinceramente non ho sentito nulla. Io cercherò di fare il possibile, di fare più gol possibili, poi vedremo a giugno. La nazionale ha avuto la fortuna di giocarci, di vincere un mondiale stupendo, e quindi se il mister vorrà sarò stracontento di andare a dargli una mano, però ci sono tanti giovani bravi, tanti attaccanti. Ci pensa, anche Tony ci pensa, anche Gilardino, che del resto l'ha detto apertamente. 800 24 00 24, sono già prenotate Maurizio da Latina e Massimiliano dalla provincia di Brescia, però c'è il traffico. Tutti convocati. C'è un duetto fra Cambiasso e Tony a Sky Sport, poi vediamo di prendere le prime battute di Tony. Maurizio da Latina, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera, dottore. Prego. Io sono un tifoso del Milan e come tale anch'io stato a casa mia la squadra, la dirigenza, l'allenatore, tutti. E quando Galliani è andato via penso che ha fatto male, perché sentire quei fischi, quella disapprovazione e leggere quegli striscioni poteva essere pedagogico e salutare per una persona che purtroppo ai nostri occhi si sta dimostrando estremamente arrogante. Cioè, il tifoso è colui il quale permette al Milan di poter vendere il prodotto, e come sta vendendo con gli sponsor e tutto il resto. Quindi non si può dire il tifoso non va al mercato. Il tifoso può fare il mercato perché il tifoso capisce quello che va e quello che non va. Quello che a noi non va bene è l'arroganza, come è stata anche ieri alle domande di Pannucci e Costacurta, ancora voleva far passare la difesa del Milan per una difesa discreta, quando invece è una difesa assolutamente scarsa. Sì, 19 gol subiti. Non passare per imbecilli, non siamo imbecilli. 19 gol subiti, solo Sassuolo e Bologna stanno facendo peggio in queste prime 11 giornate. Grazie Maurizio, anche a me non è piaciuta l'uscita di Galliani in anticipo dalla tribuna di San Siro, anche se ovviamente non c'è nessun retropensiero, anche se ovviamente semplicemente stava scendendo per poi aspettare la squadra, e lo sappiamo, c'è stato un lungo vertice con anche Barbara Berlusconi negli spogliatoi. Massimiliano dalla provincia di Brescia, buonasera. Buonasera a lei, una Prego. Cortesia, solo una battuta. Io non mi ricordo il tempo di aver assistito a un Milan così brutto, effettivamente. Ma l'unica battuta che volevo fare era questa. Glielo dico io, 1981-82, 9 punti, se ci fossero stati 3 punti anche allora, quella stagione terminò con la retrocessione del Milan. Prego Massimiliano. Sì, una battuta brevissima. L'unica cosa che mi dispiace veramente è avere perso Thiago Silva. Questo per me è l'unico problema del Milan. Dietro in difesa, ma secondo me ci sono anche altri problemi, anche senza avere Thiago Silva probabilmente quest'estate si poteva investire qualcosa sulla linea difensiva del Milan, e magari, ripeto, evitare di cambiare le carte in tavola d'Allegri. Lo scrive anche Luca al 349-238-6666. Il Milan aveva un suo equilibrio tattico col 4-3-3 con Sharawi e Boateng ai lati, che proteggevano anche in fase difensiva. Invece dopo il PSV Eindhoven è stato distrutto tutto. Io sottoscrivo dalla prima all'ultima parola. Fabio da Napoli. Sì, salve, buonasera. Buonasera. No, io volevo, diciamo, fare una considerazione, ecco. Sono tifoso del Napoli, premetto questo, e dico che sentendo anche comunque la serata che si parla del Milan, purtroppo per loro stanno andando male. Parliamo anche del Napoli, se vuole, dica. No, io volevo solamente dire che noi da parte nostra siamo molto contenti per la gestione e per il cambio di allenatore, che fortunatamente ci è andato bene, perché Benitez si sta comportando bene e tutti i giocatori che abbiamo comprato si stanno rivelando tutti ottimi giocatori. E volevo solo fare una considerazione, chiedere un parere vostro, se a Napoli per ambire a grandissimi traguardi come vincere lo scudetto o addirittura la Champions League manca ancora qualcosa. Secondo me, vorrei in vostro parere, manca ancora un centrale difensivo e un altro centrocampista da affiancare a Berardi. Secondo me, Fabio, manca un centrale difensivo, e quello che sta succedendo adesso, che Britos è infortunato, lo rende palese. Tra l'altro mi sembra che la bocciatura di Cannavaro sia definitiva. Il Napoli in questo momento ha Albiole, Fernandez e praticamente nulla più, e così è dura anche affrontare la settimana che arriva, perché c'è il Marsiglia ed è una partita che il Napoli può solo vincere per coltivare la speranza degli ottavi di finale, e poi c'è domenica Juventus-Napoli, che è una sfida, forse il vero primo snodo della stagione per il Napoli. Però il Napoli, al di là di Benitez, ha dei valori aggiunti in questa stagione. Il primo, mi sembra, saluto Filippo Maria Ricci, ciao Filippo. Ciao. Mi sembra uno scarto del Real Madrid, l'ennesimo, perché c'è Ozil che sta facendo grandissimo l'Arsenal e c'è Callejon che sta facendo grande il Napoli. Volevo sapere se a Madrid, dove probabilmente hanno altri pensieri, qualche rimpianto c'è. No, esatto, diciamo che hanno altri pensieri, rimpianti no, perché hanno una super rosa, cioè sulla destra. Il problema è che devono scegliere tra Bale e Di Maria, quindi non pensano a Callejon. Però è chiaro, ha segnato già più dell'anno scorso. Mourinho lo considerava però solo come un ricambio e ogni tanto lo utilizzava per farci le sue corse a cavalluccio. però no, in questo Real Madrid magari Callejon non aveva spazio, è giusto che sia andato a Napoli, ha fatto una scelta perfetta e ben per lui. No, a me è già la seconda volta che lui se ne va via dal Madrid, perché anche quando era nella, diciamo, nella cantera, lo mandano via, mi sembra, per 1,2 milioni, ma aveva fatto un sacco di gol con Real Madrid Castilla. Si vede che non è la sua, evidentemente, non è il suo club. Non è considerato a livello del Real Madrid, no. Ma avranno ragione loro, sicuramente hanno meno ragione su Ozil. Martedì Juventus Real Madrid, mercoledì oltre a Napoli Marsiglia c'è Barcellona Milan, e allora abbiamo 3 minuti, Filippo, per capire come stanno le spagnole partendo dal Real Madrid. Mi ha molto incuriosito il titolo di AS di questa mattina: Milagro a Vallecas, miracolo a Vallecas, Real Madrid salvato contro l'ultima da una doppietta di Cristiano Ronaldo. Che sì, succede? È un ultimo un po' particolare, perché è l'ultima che dopo quasi 3 anni ha tolto in una sola partita il possesso al Barcellona, mi sembra 51-49. Il Rayo Vallecano è una squadra molto strana, fatta con niente, però molto divertente, giocano. E insomma, il Real Madrid è da paura, potremmo dire, alla romana, davanti e dietro. Davanti fa impressione, hanno fatto 10 gol in 2 partite, tutti con questo nuovo super tridente Bale, Ronaldo, Benzema, e dietro ne hanno presi 5 di cui 4 su rigore, tutti sacrosanti, quindi so, vuol dire che non è che sono proprio tranquilli dietro. È una squadra schizofrenica. Ieri ha retto finché c'è stato Xabi Alonso. Era una formazione super offensiva quella di Ancelotti, perché c'era solo Xabi Alonso e intorno a metà campo, per esempio, a Modric e Di Maria più il tridente, quindi non giocava titolare da 6 mesi, e alla fine l'ha tolta alla fine del primo tempo e da lì sono venuti i guai. E quindi è una squadra molto strana, con la Juventus dovranno trovare quell'equilibrio. Dobbiamo aspettarcela un po' più coperta. Sì, assolutamente. E il Barça, insomma, anche lì molto strano. Messi non segna da 4 partite, in compenso segna da 4 partite Sanchez. Oggi un bellissimo titolo di Marca: Messi gioca da falso Messi, invece che da falso 9. Ma ha ragione Paolo Condò quando dice che sta scioperando, che sotto le vittorie in serie del Barcellona di Tata Martino, in realtà cova la brace di qualche problema. Sì, ci sono 2 problemi. Uno, la posizione, largo a destra, dove ovviamente molto fuori dal gioco, comunque non dentro come era prima, e secondo, la crescita impressionante di Neymar. Si sapeva, qui non è che l'hanno messo, cioè prima lui era circondato da gregari, Pedro, Teio, Sanchez, adesso c'è Neymar che è uno come lui, era dai tempi di Ibra che non aveva un gregario così, però Ibra era un attaccabrighe, questo è affabile, gioca bene, sorride, non protesta, e Messi è un po' in difficoltà. Sì, ho l'impressione che non sia un caso invece che lo sciopero di Messi corrisponda anche con l'esplosione di Sanchez, però questo lo scopriremo solo vivendo. So che sei al Calderon, quanto sta l'Atletico? Spettacolo, vince 2-0, gol di Villa e Diego Costa, veramente questa è una coppia spettacolare, in grandissima forma. Diego Costa se lo sono comprato per la nazionale. Quanto vale già? Quanto vale? Non lo so a livello di milioni, perché ovviamente se va avanti così lo dovranno vendere, come detto, tutti i grandi centravanti che sono passati di qua, Aguero, Forlan, Torres e Falcao prima di lui, ma una 50ina ormai si spendono facili, ma la cosa più importante è che lo vedremo con la Spagna. Sarà curioso vederlo in Brasile con la Spagna. Assolutamente. Questo è il tema. Grazie Filippo. Ciao. Grazie a Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Spagna. 800 24 00 24, noi ci fermiamo per il notiziario, poi c'è Pier Pardo. Ahí llega el bicho, lo que le acaba de hacer a Galvez, se pone solo, chuta el bicho, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Cristiano Ronaldo. Tutti convocati. Pier, ci sei? Ci sono, come va? Dove sei? Sono a fare benzina quasi a Torino, quindi quasi a Torino. Momento di Radio Verità, sì. Piove? No, direi di no. Mi sembra condizioni atmosferiche perfette, 25, no, 18 gradi, 15 gradi. Di qualcosa tu a Silvio da Verona, ti leggo, ha scritto al 349-238-6666, ti nomino difensore di Carlo Genta. Una settimana fa Genta aveva detto: le squadre di Mazzarri hanno la fortuna di avere pochi infortuni. Oggi l'Inter ha perso per infortunio Samuel, Jonathan e Ranocchia. Genta è peggio di un gatto nero. No, Difendilo. No, è un dato storico, anche se in realtà da Napoli dicono che il vero merito di questo, di questa tradizione di Mazzarri negli anni napoletani sta più nel, nel medico che è rimasto a Napoli che nel preparatore che invece ha seguito Mazzarri a Milano. Quindi questo è un dibattito che rimane aperto. Certo, oggi è un triplete che fa male sicuramente, insomma, però la, la solidità delle squadre di Mazzarri complessivamente, la robustezza dal punto di vista fisico, insomma, è un dato che dura da anni e secondo me rimane, quindi insomma non, non può essere una giornata a cambiare una storia che è quella. Insomma, tra i meriti di Mazzarri c'è stata sempre questa, questa attenzione, quest'anno sicuramente meno, già prima di oggi sicuramente rispetto agli anni di Napoli c'è stata una maggiore propensione agli infortuni. Sì, più che un triplete è un poker, Pier, perché c'è anche la squalifica di Juan Jesus. Ho dato un'occhiata alla rosa dell'Inter contro il Livorno sabato sera, potrebbe tra l'altro essere la prima di Toira San Siro. Ci sono sicuramente Rolando e Andreolli, poi tutto da verificare. Campagnaro, mi pare di capire che ci sono divergenze di vedute tra Campagnaro e la società sulla possibilità dell'impiego poi nelle amichevoli con l'Argentina. Il giocatore vuole rispondere sempre a Sabella per evitare di perdere il posto in vista del mondiale. È evidente che da più di un mese non gioca per l'Inter e l'Inter spinge perché Campagnaro questa volta dica di no, però a questo punto Campagnaro serve sabato sera contro il Livorno e allora è probabile che la pre-convocazione di Sabella diventi una convocazione vera e propria. Insomma, tutto questo per dire che non sarà semplice per Mazzarri mettere insieme la difesa contro il Livorno, ripeto, forse per la prima volta sotto gli occhi di Toire, quindi comunque una partita che avrà una sua importanza. Sì, beh, sicuramente una sua importanza, anche perché poi comunque l'Inter qualche punto ha perso all'inizio della stagione, quindi non può, non, non è nella condizione di poterne perdere altri. Da questo punto di vista c'è assoluta serenità, però insomma la, la stagione sta andando avanti in un certo modo. Io penso che sia la partita ideale per poter fare, per poter avere una situazione, una condizione anche con qualche acciacco, quindi insomma non dico che, se devi scegliere una partita nella quale sei in emergenza, forse con tutto il rispetto per il Livorno che oggi tra l'altro ha vinto e che quindi insomma è anche abbastanza tranquillo. Sì, anche il Livorno ha tre squalificati, Rinaudo, Coda e Greco, e pesano, si vede che non hanno voglia di giocare sabato sera. Stiamo scherzando, dai. 800 24 00 24. Comunque io non so chi sta twittando che ha scritto stasera, lo potete sentire in Torino Inter, Torino Roma, Torino Inter, Torino Roma, che c'è? È il nostro Giorgio, sì, De Luca, è il nostro Giorgio De Luca, Palanghina piano, il Greco di Tufo, mi sembra. È Napoli che gli fa perdere la testa. Andrea da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera a tutti. Allora, io volevo fare una, pronto, volevo, sì, fare una considerazione sul, sull'Hellas Verona, perché nessuno non parla mai di questa fantastica squadra che sta giocando un calcio bellissimo, secondo me, e non ha dei grandissimi giocatori, ma veramente fa sognare. Ecco, si parla pochissimo di questa squadra. Io caduta la linea, ma si parla poco del Verona, non qui, Pier, perché no, abbiamo ospitato, no, Mandorlini più volte. Sto cercando, anzi, faccio un appello pubblico, sto cercando di invitare Toni domani sera a Tiki-Taka, dove avremo una grande esclusiva. Tiki-Taka domani, bisogna cambiare una consonante, tra i più attenti capiranno chi sarà il nostro super ospite. Tiki-Taka, qualcosa di simile. Alla fine ce lo sveli. Noi oggi abbiamo lanciato la campagna Toni in nazionale, ci stanno insultando perché abbiamo detto che Balotelli così non serve, e ci sono Toni, c'è Gilardino, poi Balotelli così non serve. Balotelli così non serve. Detto questo, siccome nelle grandi competizioni bisogna avere un potenziale elevatissimo, quello che Prandelli chiede a Balotelli non è fare bene adesso, ma è fare un grande mese nel mese del mondiale. E questo quindi secondo me diventa un dettaglio. Certo, poi se fa altri sei mesi così Balotelli, ma li farà. Io penso che insomma il Balotelli delle ultime tre partite è qualcosa di completamente diverso dalla realtà e anche dalla statistica, quindi è chiaro che tornerà. Il problema su Balotelli, abbiamo detto mille volte, è che questo ragazzo deve riuscire a diventare leader di se stesso per una stagione almeno, e quest'anno sembrava l'occasione giusta, dopo i 12 gol, anche se sei sul rigore dello scorso anno con il Milan in mezza stagione, e questo non sta avvenendo, quindi siamo sempre continuamente al punto di partenza. Sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico, Pierre? Che mi ha anche un po' annoiato a me tutta questa aspettativa che c'è intorno a Balotelli, che è strepitoso, straordinario, un potenziale campione. Forse però è un potenziale campione anche se gli si consente di non avere sulle spalle il peso di una squadra, perché evidentemente il dibattito Giovanni, secondo me, qual è il requisito, qual è la categoria che bisogna giudicare al momento delle convocazioni, perché se la categoria è la continuità di rendimento, allora Balotelli ad oggi non merita il mondiale, ma in realtà sappiamo che invece la categoria, la qualità che serve agli allenatori è la qualità complessiva ed è la condizione che avranno in primavera. Quindi... Sì. Io però, Pier, volevo rispondere all'amico da Verona. Io non sono nemmeno convinto che il Verona non abbia ottimi giocatori. Ho l'impressione che abbia due o tre ragazzi di cui sentiremo parlare molto, a partire da Giorginio, per passare ai Turbe. Ho l'impressione che sia stata costruita una squadra con un mix perfetto. Qualche anziano, c'è Toni che sta vivendo la sua terza giovinezza, e poi ci sono i giovani, quelli buoni. Assolutamente, no, la squadra con grande, ma insomma l'avevamo detto anche in base all'inizio della stagione, insomma adesso sta superando ogni aspettativa, soprattutto perché vince le partite con le squadre simili, cioè la grande forza del Verona di quest'anno è stato fare 6 vittorie su 6 in casa e riuscire a essere una specie di macchina quando deve affrontare squadre dello stesso livello. Poi grandi imprese, c'è stata quella con il Milan all'inizio della stagione, la prima giornata. E per il resto, insomma, non abbiamo mai vista, l'abbiamo vista mettere in difficoltà, ma soltanto dal punto di vista del punteggio, la Juve che meritò di vincere, nel primo tempo la Roma che poi è dilagata senza problemi, l'Inter ci ha vinto abbastanza facilmente. Però ecco, è chiaro che se tu cominci a vincere tutte le partite con le squadre del tuo livello, poi alla fine arrivi a una classifica altissima, e quindi grandi complimenti a Verona. Assolutamente. 800 24 00 24 traffico. Questa cosa del traffico mi esalta, lo sai, Nogarole Rocca, l'ho sentita tante volte da ascoltatore, mi gasa tantissimo. Tutti convocati. Carrera nelle tue amanti, ma vivo come Super Mario Balotelli. Ogni serata è buona per andare al parco. Non ho i tuoi soldi nei tuoi gioielli. Nel Porsche Carrera nelle 800 24 00 24. Pier, eccoci. Sempre Balotelli, si parla sempre di Balotelli. Invece ho il nome del prossimo allenatore dell'Inter. Sì. Paolo da Bergamo, cambiasso, difensore centrale, meglio che centrocampista centrale, l'Inter ci guadagna da infortuni e via andare. Paolo da Bergamo. Non è meglio, però secondo me Cambiasso, che ha giocato, sappiamo, in emergenza in questi anni, qualche volta la centrale di difesa, ha le caratteristiche di intelligenza e di tempismo per poter fare quel ruolo. Ed è evidente che a centrocampo si richiede un dinamismo anche superiore, quindi col passare degli anni quella potrebbe anche essere un'evoluzione della sua carriera, per cui secondo me ha un fondo di verità questa frase. Sì, quindi sabato sera meglio dietro, non lo so, però... sabato sera 11 ci arriva Mazzarri. Non c'è dubbio, dai, per arrivarci ci arriva, ci arriva, e se vuoi vince pure. Ci sono Alessandro da Pescara e Stefano da Roma che hanno chiamato l'800 24 00 24, ma c'è Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. Pier, l'abbiamo convocato per chiedergli se gli è piaciuta la Juventus di ieri sera. Ho letto tanti elogi, dico la mia, anche oggi sui giornali ho sentito Conte ieri sera parlare di una vittoria da vecchia Juve. A me non è piaciuta tantissimo, e soprattutto mi sembra una Juventus che quando togli Pirlo, anche il Pirlo di quest'anno che non ha un rendimento continuo sui livelli delle ultime due stagioni, perde un po' il filo del ragionamento. Alessio? Vero, verissimo, sono perfettamente d'accordo con te. Penso che Pirlo in questa squadra sia quello che gli dà la luce, gli dà il fosforo, gli dà la qualità, gli dà i ritmi di gioco. Pogba è per me un fenomeno, ma davanti alla difesa ha provato anche Vidal. Non sono i giocatori perfetti per questo veramente questo modulo che si nutre molto del play davanti alla difesa, quindi Pirlo è il giocatore fondamentale, anche se magari non è il Pirlo della scorsa stagione, ma riesce sempre a dare quella qualità e anche un po' di inventiva, perché questa squadra onestamente togli Pirlo e magari ha un Tevez al 60-70%, pecca molto di imprevedibilità. Sì, e poi come scrive un amico al 349-238-6666, Pierre, Roberto da Belluno, Conte ha scelto il calcio senza ali, ieri come al solito la Juve ha fatto fatica, col Catania c'erano De Celi e Caceres e si è vista la differenza. Sì, è una Juventus, il lato positivo mi sembra, Pierre, che sia quegli zero gol presi nelle ultime tre partite, era diventato un po' il tallone d'Achille della Juventus, credo che Conte abbia battuto molto su questo. Poi ci sono le perplessità, però. Ma sì, però se c'è un eccesso di critica sulla Juve, almeno in campionato, insomma, fatto 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta, e al di là di una partita, quella col Chievo, dove sicuramente c'è stato un episodio arbitrale che poteva cambiarla, poi tutte le altre, derby compreso, secondo me stava comunque mostrando di essere superiore all'avversario. Ha perso una partita stranissima con la Fiorentina, dove poteva andare 4-0, e poi da grande squadra vince delle partite senza brillare, con dell'astuzia, come è successo ieri, insomma. Però io sinceramente mi sembra che quest'anno si facciano un po' troppo le pulci alla Juve. Adesso... In Champions c'è un problema, e quello lì adesso dovrebbe essere brava la squadra uscita. Adesso quanto pesa la partita con Real Madrid nella stagione? Non tanto a livello di punti, perché la Juve può anche permettersi di perderla, ma tanto si gioca tutto con Copenaghen e Galatasaray, ma nella testa, nella convinzione, quanto pesa? Pesa un macigno, perché dopo tu dici che si può permettere di perderla, non sono molto d'accordo, anche perché perdere contro una squadra che comunque non sta benissimo, perché il Real Madrid non è ancora una squadra che ha trovato dico a livello di punti, di possibilità di qualificarsi. Sì, poi però deve andare a giocare l'ultima in Turchia. Io ci ho giocato e devo dire che sinceramente andare là a giocare contro una squadra che ha degli interpreti importanti, delle individualità forti, Drogba, Schneider davanti, sono giocatori importanti, quindi andare proprio all'ultima, giocarsela alla morte con un girone onestamente abbordabilissimo, sarebbe secondo me un piccolo fallimento che potrebbe anche percorrersi poi durante la stagione, perché stavate parlando adesso, Pierluigi diceva che la Juve stava viaggiando, e sono d'accordo con lui, ha un ruolino di marcia molto molto importante, però con gli acquisti che ha fatto Tevez, Llorente, si pensava, almeno personalmente, una Juve un po' più spumeggiante, invece devo dire che sta raccogliendo tanto con il minimo sforzo, non è la Juve che entusiasmava come l'anno scorso. Mi dici come si vive da Quagliarella, cioè da giocatore che comunque è sempre, comunque, ma lo era già l'anno scorso, la quarta, la quinta scelta di Conte, eppure quando entra è sempre decisivo? Beh, la Juve è così, però onestamente, la Juve sei uno dei tanti, c'è ampio turnover, ampia competizione, sinceramente però sta avendo spazio Llorente, che anche se dicono che sta entusiasmando, comunque sta crescendo, a me con questo modulo, con queste caratteristiche, secondo me non è esaltato al massimo, Quagliarella meriterebbe un po' più di spazio, perché anche ieri ha dimostrato che quello con Tevez c'è i colpi, e quei colpi, soprattutto in partite come ieri, dove veramente si è costruito poco, sono quelli giocatori imprevedibili, quindi Quagliarella ha sempre avuto questi colpi qua, quindi meriterebbe onestamente un po' più di spazio. Sì, ho l'impressione che a Madrid, Pier, non so se tu hai notizie diverse, però Quagliarella tornerà a sedersi in panchina. No, io penso che abbia delle possibilità, poi adesso vedremo, insomma, ma io credo che Conte, l'anno scorso ci fu, ricordate l'episodio a San Siro con quella sostituzione, quella frase di Quagliarella che hanno visto tutti, che non piacque, Conte stia gestendo Quagliarella con un pochino lo stesso tipo di atteggiamento che aveva Capello nell'anno dello scudetto della Roma con Montella, cioè qualche volta ci sono delle sostituzioni, o meglio delle panchine che veramente non si spiegano, la sensazione, l'opinione pubblica non riesce a spiegarsi, ci vorrebbe dare un pochino più di spazio, e però sappiamo anche quanto è importante poi lavorare sull'aspetto psicologico del giocatore, che reagisce facendo cose importanti, come era successo ad esempio a Copenaghen, ma non stava per essere sostituito. Insomma, è una chiave di gestione di un giocatore che chiaramente dal punto di vista tecnico ha del talento, ma che fatica a trovare delle soluzioni. Però probabilmente questo tipo di situazione da precario tira fuori il meglio meglio di quello che ha. Ti ricordi l'anno scorso la teoria degli attaccanti incazzati, Alessio? Sì. Con Conte ho l'impressione, con Quagliarello ho l'impressione che Conte continui a usare più il bastone della carota. Grazie Alessio. Ciao, buona serata, buon lavoro. Grazie, ciao, grazie ad Alessio Tacchinardi, 800 24 00 24. E allora andiamo a Pescara, Alessandro. È caduta la linea, Stefano da Roma, buonasera. È caduta anche la linea di Stefano, non siamo fortunati. Non siamo fortunati, ti faccio sentire Petkovic, poi parliamo anche di Delio Rossi e della sua posizione a rischio dopo la sconfitta in casa della Sampdoria contro il Sassuolo. Adesso sentiamo invece Petkovic. Sicuramente fanno male soprattutto stasera a perdere questi punti, perché abbiamo già lasciato per strada qualche punto di troppo, ma vedendo tutto quanto io sono ottimista, spero recuperare la rosa al completo, perché anche oggi di nuovo siamo stati molto corti, e lavoriamo avanti e cerchiamo partita dopo partita ottenere risultati. Questo era Petkovic. L'aggiornamento su Delio Rossi è che la Sampdoria l'ha confermato, malgrado la posizione difficile di classifica. La Sampdoria ha 9 punti, se non sbaglio, in classifica, e malgrado una sconfitta incredibile, quella di oggi col Sassuolo. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Prego Stefano. Sì, ecco. Io capisco che comunque sia, probabilmente il vostro target è il nord Italia. No, lei ha capito malissimo Stefano, io la fermo subito. No, sto scherzando. ha capito malissimo perché dopo la pubblicità invece parleremo ampiamente di Torino-Roma e Pier sta andando a Torino, prego. Parliamo in anticipo, comunque di nuovo, volevo semplicemente dire che la prima classifica è la Roma e Milan, Juventus, soprattutto Balotelli. Mi permetta il termine, che palle Balotelli. Su. Sì, ha un po' annoiato. Stiamo il discorso. Stiamo parlando di Messi. Su. Ma lui ha detto che è meglio di Messi però, Pier. Vabbè, io anche io sono meglio di Einstein. Poi bisogna vedere cosa uno produce. Però insomma, basta con Balotelli. C'è una cosa che in generale si parla molto di chi va male, cioè si parla molto dei casi negativi, ma questo non riguarda una squadra piuttosto che un'altra. È chiaro che in questo momento il Milan e Balotelli sono storie giornalisticamente molto interessanti, perché comunque il futuro di Allegri è appeso a un filo e Balotelli da 3 partite non è più lui, fa sempre discutere, quindi tante volte non è che uno deve essere infelice se si parla poco della sua squadra. Se si parla poco della sua squadra, relativamente poco, al di là del fatto che adesso ne parliamo con Ciccio Graziani, visto che c'è una grande partita stasera, è semplicemente perché c'è poco da dire se non fare i complimenti, e questo insomma lo dico in generale, no? Perché pensi Stefano che i giornali catalani oggi sono pieni del fatto che Messi ha confermato e ha confessato di non essere al 100% con il Barcellona primo praticamente a punteggio pieno, però adesso parliamo della Roma, Stefano, resti lì, anche Tiziano da Trieste, prima però c'è la pubblicità, poi ripartiamo da Tiziano, pubblicità. Mario ha sbagliato. Mario chiede scusa, però adesso non voglio esagerare a chiedere scusa a tutti quanti, perché non è che ha ammazzato qualcuno. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Quanto ti manca all'Olimpico, Pier? Mi manca, ho superato il casello di Torino. C'è coda? Ben oltre chi va. No, non c'è coda. Facciamo il traffico in anticipo. Volevo dire due cose volanti su Petkovic e Samp. Il problema della Lazio, secondo me, al di là della sconfitta di oggi, che è pesante, è la Roma in questo momento. Nel senso che l'abbiamo visto, secondo me c'è stato un eccesso di critiche sulla Lazio per la classifica che aveva, abbastanza clamoroso, insomma, prima della partita contro il Cagliari, ad esempio. Una squadra che ha ancora tutte le possibilità per poter far bene, per poter centrare l'Europa League, per poter fare una stagione di alto profilo. Però è chiaro, lo sappiamo bene, sarebbe assolutamente identico al contrario, quindi un discorso che riguarda Roma vista da una parte o vista dall'altra, lo stesso tipo identico di situazione ci sarebbe anche al contrario, quando l'altra squadra va particolarmente bene si crea un eccesso di pressione, un'ansia da prestazione veramente enorme. Sulla Samp invece il problema è che questo allenatore è stato ha uno stipendio, ha un ingaggio e ha delle ambizioni, delle speranze dirigenti della Samp, un ruolo importantissimo, e e onestamente credo che la sua posizione sia veramente a rischio. Sì, anche se per il momento anche se per il momento Delio Rossi è confermato, ma credo che questa settimana, quella che poi porta alla sosta, poi chiarirà molto delle panchine della Serie A, quelle un po' più nei guai. A proposito di pressioni, di come si vive a Roma, Ciccio Graziani, buonasera. Buonasera, io ero un po' arrabbiato con voi. Perché? Perché no, è la mia prima convocazione, io pensavo di essere convocato un pochino prima, invece... Ciccio, ma tu sei titolare fisso, non dobbiamo neanche chiudere. Non mi avevate mai convocato, ragazzi. Vabbè, domani arrivo un quarto, vai, preparati, fatti trovare libero, comunque al calcetto a due un quarto. Tutto bene, grazie. Senti, ma Ciccio Graziani, una domanda, la sera di Torino-Roma, che fa? Vuole i tre punti a tavolino per tutte e due? Che... È come se mi dicesse due figli a quale vuoi più bene, è chiaro, appunto. È una partita particolare per me, perché la vivo con emozioni contrastanti, perché sono stato bene da tutte e due le parti, perché tifo per queste due squadre, oltre alla Fiorentina, che sono le squadre del mio cuore, quelle dove ho esercitato la mia professione, la mia carriera. Quindi io dico sempre, speriamo che sia una bella partita, che il pubblico si diverte e poi vinca chi deve vincere. Pazienza. Sono simili Torino, Roma e Fiorentina? Non sono assolutamente simili, sono tutte e tre davvero molto diverse, perché Torino socialmente sembra un po' fredda, però allo stadio c'era sempre stato molto calore, perché noi avevamo una curva, la curva Maradona, che era ogni domenica uno spettacolo. Noi a quei tempi, mi ricordo, non giocavamo meno di 40-45 mila spettatori quando venivano le piccole squadre, 60 mila quando venivano le grandi squadre, quindi rapportarla oggi sembra fantascienza. Per quanto riguarda Firenze, è una città particolare, perché ci sono sempre un po' di polemiche, c'è sempre un po' di pressione e a volte la gente non si accontenta mai. Roma invece, sotto il profilo calcistico, è l'esperienza più bella, perché a Roma c'è una passione, c'è un coinvolgimento da parte della città. Anche qui faccio un esempio: quando giocavo io a quei tempi, arrivavamo allo stadio, si giocava alle due e mezza, arrivavamo sempre all'una col pullman. Allo stadio Olimpico c'erano già dentro 50.000 persone e noi sempre scherzavamo, perché sentivamo il profumo della mortadella, perché la gente veniva allo stadio, portava i panini. Sentiva il profumo della mortadella. Altro che l'anticipo delle 12.30, allora lo stadio si viveva dalla tarda mattinata, ma sì, il problema c'è anche qua, adesso anch'io sento il profumo della mortadella o della mortadella. Devi resistere ancora un quarto d'ora, Pierre. A proposito di come cambiano le prospettive, Ciccio, quanto si gode, se si gode in questi giorni a Trigoria, ma dentro Trigoria, per il fatto che la Lazio è alla metà dei punti, ricordando anche che cosa è successo a maggio, sembra passata una vita dopo quella finale di Coppa Italia? Beh, in questo momento si gode il doppio, perché quella finale è stata un disastro calcisticamente parlando per la Roma e per i suoi tifosi, per non aver raggiunto un obiettivo che era importante, che era non solo la vittoria della Coppa Italia, ma anche l'accesso all'Europa, e perché in questo momento i romanisti sbeffeggiati tutte le volte, perché poi pensate che ancora oggi, ogni domenica, al 71esimo del secondo tempo, qualsiasi partita giocata a Lazio, c'è un boato. Sì, sono meravigliosi, da questo punto di vista. È meravigliosa questa rivalità. No, questa tradizione, però ai romanisti questa tradizione gli sta sullo stomaco. E quindi oggi naturalmente la soddisfazione non è doppia e tripla, perché vedono la Lazio in difficoltà, piena di polemiche, e la Roma che sta viaggiando a tempi di record e che è prima in classifica. Senti, che pensiero ti sei fatto di Garcia? Proviamo a paragonarlo a qualcuno degli allenatori che in questi 15-20 anni sono passati dall'Italia? Beh, mi sembra un po'... Ma degli allenatori esteri? Sì, anche italiani, ma comunque hanno lasciato un segno subito. Io vedo che ha una similitudine con Giancarlo De Sisti. Ho avuto Giancarlo De Sisti, che è un allenatore molto, molto bravo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto molto bravo dal punto di vista dei comportamenti, del saper far gruppo, di non uscire mai fuori dalle righe, di rimanere umile, perché chi ha giocato al calcio sa che l'umiltà è una virtù profonda. Perché poi sai che ci sono momenti belli, momenti meno belli, e quindi io per quelle poche volte che sono stato a Trigoria, che ho avuto la fortuna di guardare qualche allenamento e di salutarlo, mi sembra sempre una persona molto così, molto sincera, molto corretta. Lui l'aspetto più importante secondo me di Garcia nel lavoro che ha fatto da quando è arrivato a Roma ad oggi è quello di aver creato all'interno della squadra un'armonia, una compattezza che sono l'arma vincente secondo me. Lui ha rigenerato dei giocatori dal punto di vista psicologico che nessuno se lo aspettava, e se voi ci fate caso, ogni volta che la squadra segna i primi ad entrare in campo sono i ragazzi che sono in panchina e si abbracciano tutti. Questo è sinonimo di aver fatto un lavoro straordinario all'interno del gruppo. Sì, il mio dubbio, Pier, è se la Roma di Florenzi, Borriello e gli Aic sia una Roma da scudetto, nel senso se dietro Totti, Gervinho, al di là che Totti in questo momento non c'è, mancherà ancora per un po', questa sia una squadra che abbia una profondità sufficiente, soprattutto davanti. La Roma ha meno rosa di Juve e Napoli, però è anche vero che la Roma non ha le coppe, quindi questo, insomma, con una partita a settimana puoi gestire meglio queste situazioni. È chiaro che fino a questo momento i titolarissimi sono stati il segreto di questa squadra. L'altro giorno contro il Chievo in panchina c'erano 12 giocatori, 8 dei quali non avevano giocato un minuto in stagione. Stasera ci sarà l'esordio dal primo minuto di Burdisso, che comunque sappiamo è un giocatore esperto, quindi dovrebbe dare ampie garanzie, però è uno che fino a questo momento ha giocato 0 minuti. È chiaro che non c'è la stessa profondità, la stessa ricchezza che hanno Juve e Napoli, però c'è un vantaggetto fino adesso, vedremo stasera se sarà un vantaggio molto importante o un vantaggetto, e poi bisogna capire che succede qui a dicembre, perché comunque Juve e Napoli hanno una situazione abbastanza complicata in Europa, quindi bisogna capire secondo me come si arriva a Natale, come si arriva allo scontro diretto Juve-Roma. Io sono convinto che Juve e Napoli abbiano qualcosa in più, però non sempre lo scudetto lo vince la squadra che ha la maggiore quantità, la maggiore somma di talento. Sì, io Ciccio non invito i giocatori di Juve Roma, se non sbaglio è all'Epifania, giusto Pier? Pier? Sì, passeranno delle pessime fere di Natale, ho l'impressione, Ciccio. Beh, questo lo so, sono d'accordo con Pierluigi. La Roma ha il grande vantaggio di non fare le coppe e quindi di preparare le partite settimana per settimana curando al meglio la parte tattica e la parte fisica. La Roma davanti ha un potenziale straordinario, perché voi pensate che gli Aic e Borriello, e Destro anche, mettiamoci anche Destro che in questo è ancora infortunato, giocherebbero titolari su 17 squadre su 20, e quindi la Roma anche nelle alternative davanti è fortissima. Però c'è un altro aspetto, che se le cose continuano ad andare avanti così, ho l'impressione che a gennaio, se ci fosse da fare un piccolo sacrificio per rinforzare il reparto difensivo o quello di centrocampo, io penso che la Roma sia in grado di poterlo fare, per cui attenzione, perché Napoli e Juventus sono sicuramente più forti della Roma, su questo non c'è dubbio. Ma la Roma potrebbe fare davvero il colpaccio quest'anno. Poi attenzione, secondo me, a dare a questa squadra una serie di difetti strutturali o comunque di caratteristiche tipiche di Roma e della romanità, no? Si dice sempre che a Roma è più difficile vincere perché c'è tanto amore, e questo amore delle volte diventa pressione. Beh, insomma, se guardiamo una squadra che nelle prime 10 partite invece ha avuto proprio una forza nervosa, mentale, in qualsiasi momento, è proprio la Roma. Quindi è chiaro che l'aspetto ambientale è un aspetto importante, e nel passato evidentemente ha inciso in qualche circostanza anche in maniera negativa, proprio per questa grande... mi servirebbe anche una ricevuta in diretta su Radio 24. Quindi ci sei quasi allo stadio. Sì, ma difatti stiamo aspettando tutti la prima caduta della Roma, non perché gliela auguriamo, Ciccio, ma per capire quale sarà la reazione. Io, e poi ti salutiamo, ad esempio, ho trovato importante la reazione contro il Chievo in una partita che nascondeva mille incognite e che difatti è stata anche difficile sul campo, ma che alla fine la Roma ha portato a casa. Lo chiedo a te, che se non sbaglio eri in campo in quel famoso Roma-Lecce che costò lo scudetto, uno scudetto che era già vinto. Sì, ma vedi, a volte le partite più facili sulla carta diventano le più difficili, perché trovi squadre che anche se tecnicamente sono inferiori, però tatticamente il calcio italiano è molto evoluto, si difendono sempre in nove uomini dietro la linea della palla, non trovi i passaggi giusti, cominci ad innervosirti un po'. C'è da dire che la Roma nelle ultime due partite con Udinese, anche se ha giocato per un po' di minuti con l'uomo in meno e con il Chievo, ha fatto un po' di fatica, ma è normale perché quando giochi con squadre leggermente un po' inferiori dal punto di vista tecnico, ci sono delle chiusure difensive che non ti permettono a volte poi di essere così brillante ed efficace come era successo in precedenza. Però io penso che alla Roma abbiano messo in preventivo il fatto che prima o poi qualche partita bisognerà scontarla, però l'impressione è che è una squadra fatta di giocatori con carattere, con personalità, e sanno che prima o poi può arrivare il momento negativo, ma questo non significa poi che non si può continuare a fare bene, perché le basi dal punto di vista tecnico ci sono tutte. Io credo che il centrocampo della Roma in questo momento sia fortissimo, quanto quello della Juve e quello della Fiorentina, secondo me, che sono, non e c'è anche dubbio. Quello del Napoli, devo dire, mi piace molto, però devo dire che è molto forte, ha una struttura di qualità caratteriale, tattica e tecnica che ce l'hanno in pochi, secondo me. Non c'è dubbio, ti lasciamo senza la cattiveria del pronostico, ti lasciamo così e con la promessa che torneremo a convocarti. Ciao Ciccio, buonasera. Ciao Ciccio, io me l'aspetto questa convocazione, mi raccomando. Domani alle 14:15, dai, domani ti richiamano, così parlerete di com'è andata. Ciao Ciccio, ciao, un abbraccio a tutti, ciao Gianluigi. Un abbraccio anche a te. Una cosa volevo dire, 30 secondi su quello che diceva Ciccio, sono molto curioso di vedere stasera Ventura come giocherà la partita, perché quello che dice Ciccio è vero, cioè la Roma è andata in difficoltà nelle ultime partite, soprattutto con squadre chiuse, è abbastanza normale, è abbastanza logico. Il Torino però ha caratteristiche, pur non essendo insomma una squadra di altissima fascia dal punto di vista della classifica, però ha l'ambizione e un tipo di struttura e di filosofia di gioco invece abbastanza propositiva, è una squadra che potrebbe giocare col 4-2-4 o col 3-5-2, comunque sicuramente con almeno due punte e con una certa qualità in mezzo al campo. È una squadra che secondo me quel lavoro lì di copertura non lo sa fare tantissimo, dà il meglio di sé se gioca la partita, come è successo ad esempio contro l'Inter o contro il Milan in casa. Per cui sono curioso di vedere se Ventura in qualche modo cambierà l'essenza, la filosofia di gioco della sua squadra, oppure se proverà a giocarsela come il Torino sa fare, però potrebbe lasciare gli spazi per la ripartenza da loro. Traffico. E andiamo a vincere, grandissimi. Ciao. Tutti convocati. Sai di cosa stanno parlando Pier su Sky? Immagino anche su Mediaset in questo momento. Indovino. Vai. Balotelli, Allegri, il Milan. Balotelli. Non se ne esce. Pietro da Torino, buonasera. Buonasera a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Scusate solo un attimo, volevo allacciarmi all'intervento di Graziani precedentemente, dicendo che però quest'anno la Roma è lì perché corre di più e ha più fame e ha raccolto le esperienze fatte con Zeman precedentemente e con Luis Enrique e la bravura tecnica dell'ultimo allenatore. E purtroppo c'è anche un po' di fattore C e quindi è giusto che sono bravi, giocano meglio. Tornando invece alla mia squadra, al Milan, io mi chiedo quest'anno se riusciamo a arrivare forse al 15° posto, va bene, il livello è basso. Non capisco perché si continuano a esaltare giocatori come De Jong, che faceva forse un Furino prima maniera, ma Furino era più bravo, fa solo scivolate e ogni tanto falcia anche i suoi compagni. Perché in questo momento è quello che passa al convento, Pietro, perché è quello che al Milan, perché De Jong insieme a Montolivo mi sembra che sia uno dei pochi elementi positivi di questo inizio di stagione. Pier, ti lasciamo alla mortadella? Sì. Vedo quasi lo stadio, ormai sto uscendo da tangenziale. No, sul Milan c'è questo clamoroso sliding doors della carriera di Allegri, perché Allegri, lo sappiamo, insomma, è storia, poteva andare alla Roma, aveva praticamente il contratto, era tutto fatto. È stato tenuto su pressione di Galliani, su pressione della squadra, la scelta sua personale. Chissà, adesso insomma rivederla con Senna di poi fa abbastanza. Sì, lui si è pentito di sicuro, credo la Roma. Sai, no. quando comunque rimani con una fiducia a tempo, senza un contratto nuovo, abbastanza delegittimato, non è il massimo. No, per quello ho detto, questa è una stagione nata male sin dalla partenza. Pier, buona telecronaca. Grazie. Appuntamento con te domani dalle 14 con Carlo Genta. Chiusura per la Formula 1, perché oggi si è corso ad Abu Dhabi. Saluto Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera. Vettel, Webber, vabbè, annoia anche dirlo, quello che è stato il podio di questo Gran Premio, undicesima vittoria stagionale, settima consecutiva, la classifica mondiale fa addirittura spavento a leggerla, 347 contro 217 punti, il secondo è Alonso. Alonso che è arrivato quinto, io non so come classificare questa domenica della Ferrari, aiutaci tu. Beh, intanto c'è da dire che svegliamo anche quello che è stato un mistero fino nelle due ore successive del dopogara, perché Alonso era passibile di una penalità o di una punizione, perché in un discusso sorpasso in uscita dei box è andato fuori pista per passare una Toro Rosso che stava sopraggiungendo. Si temeva una penalità che lo potesse far retrocedere al decimo posto, invece alla fine i commissari proprio pochi minuti fa hanno sancito che non ci saranno provvedimenti. Mi sembra abbastanza di manica larga in questo weekend i commissari, c'era stato qualcosa anche ieri dopo la pole position di Webber, e anche lì hanno lasciato passare. Tutte le minacce che hanno fatto in questo weekend poi non hanno avuto effetto, diciamo che nel caso Alonso era molto discutibile e ambigua la cosa, però normalmente perseguono anche cose molto più drastiche, invece hanno decretato che la cosa non era la vicenda non era punibile. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Beh, per come è andata la gara, abbastanza pieno, perché in fondo Alonso ha fatto una bella corsa, anche se lui dice per primo non potevo far meglio che quinto, perché il quarto era 20 secondi da me, e comunque anche fossi partito meglio, non ci fossero stati doppiati che mi ostacolavano, il traffico eccetera, non sarei mai arrivato quarto. La realtà è che la Ferrari però sta perdendo la corsa al secondo posto della classifica costruttori, che vale quei 7-8 milioni di euro, probabilmente nel budget complessivo della Ferrari è poca cosa, però è evidente che è l'ennesima spia di una seconda parte di stagione inaccettabile dal punto di vista dei risultati, direttore, al di là poi delle polemiche e anche di alcune uscite di Alonso. Sì, purtroppo le prestazioni non si cambiano dall'oggi al domani, insomma, lo stesso Red Bull che a inizio anno faticava ci ha messo qualche mese a diventare quel missile imbattibile che vediamo oggi che vince di seguito. La Ferrari non riesce a cambiare passo, anzi si sta facendo raggiungere da tutti quelli che aveva messo dietro nella prima parte di stagione. Adesso la Mercedes è nettamente davanti alla Ferrari, e se Rosberg è finito sul podio, se Hamilton non aveva i problemi ai freni, finiva davanti anche lui, è stato passato Alonso solo nel finale, e quindi la Ferrari in questo momento è la terza o quarta forza del mondiale, dovrà stringere i denti nelle prossime gare per riuscire a recuperare quei punti della Mercedes per almeno per il secondo posto, che è una situazione platonica. In realtà queste ultime gare servono anche per provare componenti aerodinamici che serviranno per la macchina del prossimo anno, quindi per questo è importante insistere, provare, collaudare, mettere pezzi nuovi sulla macchina, non per un risultato effimero ma per portarsi avanti in vista del prossimo anno. Sì, non per essere eccessivamente pessimisti, ma se il buongiorno si vede dal mattino, anzi dalla notte prima, ho l'impressione che ci sarà un inverno di lavoro davanti. Grazie direttore. Prego, grazie a voi. Grazie ad Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Abbiamo finito, chiedo a Giorgio De Luca, abbiamo finito? Abbiamo finito qui, allora appuntamento con tutti i convocati domani a partire dalle 14 con Carlo Gente e Pierluigi Pardo, invece tutti i convocati weekend torna domenica prossima dalle 17 alle 19, ci sarà la lunga attesa di Juventus-Napoli, poi il campionato si ferma per le nazionali ma ci regala questo big match. Io ringrazio e saluto Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Filippo Aureggi e Fabio Cantadori che si sono alternati in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano.